brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina, come è facile prevedere, abbiamo cambiato in corsa quelli che erano i nostri programmi settimanali e ci vogliamo anche noi mettere a riflettere su quella che è la notizia del giorno. I sei italiani morti in guerra. Alla fine è questa la notizia. Penso che avete avuto tutta la mattina per riflettere sugli aspetti politici, sugli aspetti strategici, sulle varie e approfondite valutazioni del teatro di guerra, ma naturalmente, come è nello spirito della nostra missione, questa mattina cercheremo almeno un punto di vista laterale rispetto a quanto già detto. La vostra percezione dello stato di guerra. Vi faccio capire come ho avuto la prima sensazione di quello che era accaduto questa mattina, prendendo come al solito la metropolitana e come al solito osservando quello che è il più potente, il più diffuso, il più popolare dei mezzi di informazione di massa, dopo naturalmente la televisione, dopo la radio, che è quello della Free Press. Nelle metropolitane italiane si prende gratuitamente un piccolo giornale che dura per tutto il tempo del tragitto in metropolitana, poi si lascia sul sedile e nel corso della giornata quel giornale viene contaminato da un insieme di altre persone che lo prendono, lo rileggono, lo guardano. La sera nel viaggio di ritorno si trova ancora stazionato per terra, magari appoggiato sul sedile, ancora forse è palpita di qualche senso, perché la maniera più diretta, più immediata, anche un linguaggio che è facilmente comprensibile a tutti, agli extracomunitari, agli stranieri, alle persone che mai nella loro vita hanno acquistato un quotidiano. Beh, normalmente questi giornali hanno una prima pagina molto suggestiva, dedicata a ciò che colpisce subito l'immaginario popolare. Dalle escort, dalle vicende pecorecce legate alla politica, a Miss Italia. Ieri c'era la foto di Miss Italia, tutte le dichiarazioni di Miss Italia. Oggi, con la stessa normale maniera di trattare la notizia, il titolo almeno di quello che avevo io, che è Metro, ai italiani coraggiosi, sono sei foto tessera di sei militari morti, uccisi in guerra, combattendo. Ci sono le loro biografie come se fossero sei partecipanti al Grande Fratello, con la stessa impaginazione grafica e con la stessa tranquillità e con la stessa leggerezza le persone affrettate, frettolose, prese dal tedio quotidiano all'affrontare la giornata, guardavano il mitragliere sempre in prima linea, il soldato che rinviò le nozze per servire il suo paese, il giovanissimo ma già un asso sui lince, un gigante che amava l'avventura, un fiero parari entrato ieri dalla licenza, un veterano con tre missioni in Afghanistan. Ecco, non vorrei banalizzare il senso che ci sono ragazzi morti combattendo con le armi in mano, fanno i soldati e il soldato sa che nel conto della sua scelta, soprattutto quando è un soldato volontario, un soldato non in periodo di coatto arruolamento o di stato di guerra che tocca il proprio paese, sa che ha in conto il fatto che potrebbe morire in combattimento. Sono sei persone morte combattendo. Io vengo da una generazione che non ha la percezione del morire combattendo, per quanto sia stato attraversato anche professionalmente da un insieme abbastanza intenso di attività belliche che hanno coinvolto il mio paese, non ho ancora la sensazione che si potesse combattere in guerra. Sono nato nell'immediato dopoguerra, quindi vengo da una famiglia, dei genitori che hanno toccato la guerra, conosciuto la guerra, è cresciuto, pasciuto nel boom economico, sentivo la guerra come qualcosa di lontanissimo dalla mia esperienza personale. Eppure in varie fasi della mia vita professionale riappare la guerra. Questa mattina all'800240024 vorrei che chiunque sia interessato a farlo, desideroso di farlo o abbia voglia di partecipare a questo dibattito, mi dia la sua percezione dello stato di guerra. Presento l'ospite in studio, chiamato al volo un caro amico che spesso è stato presente alle nostre trasmissioni, Marco Pizzo, buongiorno. Buongiorno. Marco Pizzo è direttore del Museo Centrale del Risorgimento. Perché l'ho chiamato? Innanzitutto perché sta organizzando una mostra proprio sulla rappresentazione iconografica della guerra. Le medaglie dei valorosi, dei vittoriosi, dei caduti e le foto orribili di coloro che hanno lasciato la loro vita sul campo di guerra. Facciamo un velocissimo segno su l'iconografia della guerra, come è stata raccontata la guerra da quando esiste la fotografia in Italia? La prima raffigurazione della guerra possiamo dire che risalga proprio al 1849. Durante il periodo della Repubblica Romana ci sono le foto della distruzione della Repubblica Romana. E già inizia a vedersi quello che è un tratto distintivo della fotografia di guerra fino alla Prima Guerra Mondiale, ovvero sia il paesaggio distrutto, ma mai i morti, cioè i danni agli edifici materiali, ma mai il corpo morto, del defunto, del soldato morto. Ci sono però delle eccezioni, e in questo noi italiani abbiamo un primato triste, cioè la prima foto di un cadavere di guerra è stata scattata da un italiano, Felice Beato, nella guerra cinese, cino-nipponica, alla metà dell'Ottocento. La rivolta dei boxer. La rivolta dei boxer. È il primo caso in cui si vede il corpo riverso sulla strada di un soldato morto. Ed è un caso del tutto eccentrico, perché altri esempi, come per esempio i defunti di Mentana del 67 o quelli della guerra di secessione americana, molto spesso erano dei corpi finti, cioè delle messe in scena. Cioè facendo dei figuranti e mettendo dei figuranti stesi per far vedere che c'erano stati morti. Esatto, il caso limite è rappresentato dalla breccia di Porta Pia, in cui c'è un vero e proprio fotomontaggio di soldati morti che si vedono riversi col fucile. E è sempre lo stesso soldato. E qual era la necessità di creare un diorama realistico del territorio di guerra senza urtare le sensibilità di chi veramente aveva dei parenti morti? Esatto, quello di far vedere una versione sempre e comunque edulcorata della guerra. Ecco, tutta la Prima Guerra Mondiale invece, guerra che sappiamo ben fornita di morti di tutti i tipi, di tutte le modalità, dai morti uccisi con le mazze ferrate, ai morti con il gas, ai mitragliati, agli esplosi, agli amputati. Anche questa è una guerra in cui si vedono grandi foto di trincea, grandi foto di pronti al combattimento, ma poche foto di morti. Poco foto di morti, proprio perché per quello che riguarda lo Stato Maggiore italiano erano proibite le foto di morti. Tant'è che un fotografo, Luca Comerio, che nel 15 osò fotografare dei morti, venne cacciato dall'esercito. Ma c'era anche una funzione invece di tipo didattico, divulgativo, cioè gli italiani facevano vedere i danni fatti dagli tedeschi, dagli austriaci, i danneggiamenti dell'esercito visto come crudele, ma mai propri. E comunque la cosa che manca, e veniva proprio censurata, erano la fase intermedia, cioè le amputazioni, i danni materiali al corpo. L'Istituto Rizzoli di Bologna conserva una serie imponente di fotografie di mutilazioni di guerra. E tutto questo non si vede. Non si conosce, è pochissimo noto. In questa mostra che stai organizzando invece si vedranno. Sto cercando di avere per la prima volta queste fotografie. Ma non trovi sia un complemento necessario? La guerra, noi abbiamo dal dopoguerra, dell'ultimo conflitto mondiale in poi, un senso edulcorato, non chiamarla mai con il suo nome, anche se si combatte, si muore, si partecipa, di avere sempre un altro nome, cioè questo grande esorcismo, come se ci fosse una guerra che fa operazioni chirurgiche, combattimenti in cui ci sono delle vittime, ma non c'è mai il senso reale, concreto, percepibile della morte. Proprio perché c'è una rimozione. Spesso la guerra era associata al termine di morte, ma poi è la morte di per sé che dà paura e quindi viene sorpassata. Ecco, questa mattina, sfogliando i quotidiani italiani, la stampa italiana, si nota una sorta di diversità di intenzione editoriale nel trattare quest'ultimo episodio di guerra e di morte. Ho citato la Free Press con le foto tessera dei soldati e la loro biografia vicino. Altri giornali hanno mostrato il blindato esploso, la strada martoriata all'esplosione, come dice appunto Marco Pizzo, nella classica iconografia di racconto della guerra. La Stampa ha una foto in cui si vedono i commilitoni degli scomparsi che coprono con un lenzuolo blu i cadaveri, ma non si vedono i morti. L'unico quotidiano in Italia che mostra crudamente ma realisticamente il cadavere dei soldati morti è Il Giornale. Ho al telefono Alessandro Sallusti, che è condirettore del giornale. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a voi. Voi avete fatto una scelta molto precisa, avete un servizio esclusivo in cui si vedono i soldati italiani morti. Questi scatti sono stati fatti pochi minuti dopo l'attentato da dei reporter afghani che ce li hanno offerti. E noi li abbiamo presi e pubblicati non per come dire, un gusto esibizionista, ma perché crediamo che il compito di un giornale sia quello di documentare la realtà, e la morte è una parte, direi, fondamentale, come appena avete detto, della guerra. In guerra si muore. Ho ascoltato il vostro discorso, molto interessante, aggiungerei un tassello. Forse c'è un pudore verso la morte dell'opinione pubblica, ma credo che il non pubblicare foto di soldati morti derivi anche dal fatto che sotto i regimi c'era la volontà di censurare la stampa e di tenere alto il morale dei soldati e dell'opinione pubblica, e quindi era forse più una necessità dei regimi e dei governi quelli di non mostrare la morte in guerra che non dell'opinione pubblica di guardarla in faccia. Ecco, noi siamo in una guerra molto particolare, queste ultime guerre moderne ci lambiscono, ci toccano, ci feriscono, ma non sono mai chiaramente pronunciate come tali, e quindi l'opinione pubblica è colpita, condizionata, semplicemente sfiorata da quello che vede sui giornali. Poi vedevo che ognuno fa la propria vita. Anche questo governo e questi governi italiani degli ultimi anni hanno voluto far credere all'opinione pubblica che in Afghanistan, tutto sommato, noi eravamo lì a fare la logistica o poco più. Insomma, non si è mai parlato di guerra, anche perché la nostra Costituzione lo impedisce. Ecco, invece queste foto documentano che noi siamo in guerra, che in guerra si muore. E poi c'è un altro fattore, che proprio in un momento in cui in Italia molti giornali rivendicano il diritto a non essere censurati dai governi, dai premier, dai ministri, no, su questioni veramente banali, marginali, stupide, come cosa succede nelle camere da letto dei ministri, dei premier. Ecco, allora, se noi giornalisti rivendichiamo il diritto di curiosare nelle camere da letto dei nostri politici, non vedo perché non, come dire, dovremmo essere così ipocriti di non far vedere invece cosa succede in una guerra. Allora, ecco, devo dire, Alessandro, che proprio per onor del vero, il volto di questo soldato morto, che è riverso nella posizione scomposta che ha un uomo quando viene colpito all'improvviso da un'esplosione in fatto di guerra, si vede il corpo disteso, i suoi commilitoni, uno che arma la pistola, l'altro che sta telefonando, che si stanno organizzando, ma questo dà anche l'idea dell'operatività. Non immaginiamo che i soldati vanno lì a fare una parata, si vedono pronti in assetto di guerra, proprio come si vede nei film. L'iconografia della guerra raccontata dal cinema, che ci sembra talmente lontana dalla realtà da essere addirittura suggestiva e fantastica, qui è applicata in persone che appartengono alle nostre famiglie, alle nostre città, alle nostre conoscenze. Dicevo, il volto del cadavere riverso è però pixellato, cioè oscurato, non si vede la faccia. Ci sono due motivi. Uno, che comunque, nonostante questa nostra scelta di documentare in maniera così cruda, forse anche cinica, quello che succede in guerra, insomma, davanti alla faccia lì si subentra, come dire, un rispetto ai parenti. Ma nella fattispecie di questo povero soldato c'è un problema in più, che sotto quel pixel vuol dire oscurare un dettaglio di una fotografia, renderlo irriconoscibile, purtroppo quel soldato la faccia non ce l'ha quasi più, e per cui sarebbe diventata un'immagine respingente proprio dal punto di vista dal punto di vista fisico sarebbe stato respingente, perché quel povero soldato la faccia ce l'ha completamente devastata, non si vede più neanche la faccia. La stessa ragione per cui diceva prima il professore qui in studio a noi, Marco Pizzo, che non si mostravano le foto dei mutilati numerosissimi nella prima guerra mondiale, quasi fosse una morte eroica, che scende l'arcangelo Michele con la spada, lo prende e lo porta via nella gloria degli eroi. In realtà la morte in guerra è una morte brutta, una morte schifosa, è una morte che segna profondamente, orrendamente il nostro corpo. Grazie Sallusti, ti lascio, che so che tu hai un impegno, e buona giornata. Marco Pizzo, su quanto abbiamo appena detto su questa ultima foto, trovi delle similitudini con l'escursus storico che tu stai facendo? Sì, diciamo che questa prima pagina si pone su un crinale, cioè il giornalismo può decidere di fare cronaca o di fare storia. Nel momento in cui si pubblica una foto di questo genere, si decide di fare storia, cioè di pubblicare un documento che ha una valenza storiografica, che mostra una cosa molto difficile, che è la banalità della morte. come giustamente dicevi, si vedono i soldati intenti nelle loro attività, perché la morte è una loro attività. C'è chi telefona, chi carica l'arma, riguarda il fare guerra. E questo lo capì agli inizi dell'Ottocento Goya, con gli orrori della guerra, che rappresentò proprio la banalità e l'atrocità della guerra. Uomini impalati, infilati, ammazzati, distrutti. Insieme a bambini che giocavano con i gatti, cioè... Tutta la vita prosegue insieme all'orrore. La differenza rispetto alla scelta che ha fatto il giornale, secondo me, è che noi queste rappresentazioni le guardiamo anche postume. Alle scuderie del Quirinale c'è una mostra sulle foto di guerra, l'ho visto poco tempo fa, ma sono sempre, si vedono sempre dopo, mai coeve al momento in cui si vive la guerra. Stefano, buongiorno. Buongiorno, saluto a tutti. Niente, volevo fare una considerazione. E per quanto riguarda la guerra, che la fanno sentire molto ma molto lontano, sembra quasi che non ci sia, siamo lì ma non chi siamo lì per aiutare, per mettere a posto, ma non succede niente. Anche il fatto di queste morte di questi poveri ragazzi. Però Stefano, mi scusi se la stringo. Sì. Di commentatori ce ne sono anche troppi. Sì, mi parli della sua sensazione. Non mi interessa il suo punto di vista. Certo, è una sensazione di una cosa lontana. Lontana che non ci tocca. Una cosa quasi che sì c'è, però passato l'evento non c'è più. Quindi l'emotività, compreso il minuto di silenzio che è stato fatto ieri con il telefonino che squillava di un parlamentare mentre facevano il minuto di silenzio, fa parte della rappresentazione pubblica del cordoglio, ma la percezione generale, come dicevo stamattina alla metropolitana, è che la normalità non è scossa da questo episodio. Grazie. Giovanni Fiorentino, buongiorno. Buongiorno. Professore associato all'Università della Tuscia, dove insegna sociologia della comunicazione, ma lei ha scritto e studiato e approfondito il tema della fotografia, anche della fotografia in guerra. Ha scritto La fotografia in guerra, immaginario, torture e orrori, edizione Meltemi, quindi sa tutto sulla foto di guerra. E lavorare con la fotografia di guerra può essere anche faticoso, perché non è la stessa percezione del consumatore, dello spettatore in metropolitana, del lettore di giornale. Perché vuol dire circondarsi per un anno e mezzo di immagini di guerra costantemente. L'immagine non è la realtà, e questo mi sembra chiaro, è stato anche specificato negli interventi precedenti. Su questo però, se mi permette, professore, è una moderna percezione. Agli inizi l'immagine fotografica, anzi, sembrava che fosse la prova più realistica della realtà, o sbaglio? Assolutamente sì. Difatti il governo inglese nell'Ottocento ha utilizzato l'immagine fotografica per tranquillizzare l'opinione pubblica, mentre i giornali cominciavano a dare notizie di una guerra cruenta. Quindi l'immagine tranquillizzava, perché mostrava le dame di compagnia con i feriti, le cure prestate agli uomini feriti e incerottati. Quindi l'immagine dà concretezza, perché rimanda direttamente alla realtà, ma l'immagine ha anche la forza di poter nascondere piuttosto che mostrare. L'immagine fotografica ancora di più, perché nel momento in cui delimita, seleziona, inquadra, fa emergere, lascia fuori tutto quello che è il contesto. Ecco, professore, se volessimo fare uno sforzo ulteriore, poi i funerali di Stato, la cerimonia televisiva, l'elaborazione collettiva attraverso la simultanea di tutte le televisioni, hanno lo stesso scopo e lo stesso meccanismo di elaborazione e di tranquillizzare comunque le masse? Sicuramente c'è la possibilità di mettere in scena una grande cerimonia che può diventare una sorta di catarsi, una forma di catarsi. È chiaro che la grande cerimonia non mostra, come diceva il condirettore del giornale, la cruenza e la realtà della guerra, la vita ordinaria del soldato, la vita ordinaria del militare. Da questo punto di vista, le ultime guerre, le guerre degli ultimi 10 anni, ci hanno mostrato attraverso i mezzi di comunicazione come si possa organizzare, costruire e diffondere un'immagine della guerra, tenendo conto di mezzi di comunicazione differenti, penso soprattutto alla rete, che consentono anche di bucare la comunicazione embedded controllata. Lei ricorderà la guerra in Kosovo in cui eravamo anche noi impegnati, mi sembra nel 98-99, e c'era una totale mancanza di immagini, sono aerei che partivano da Aviano, aerei che tornavano a Aviano, ma quello che accadesse poi in realtà nel territorio di guerra, bombardamenti, distruzioni, morti, non si vedeva nulla. Quindi il massimo potere di fuoco mediatico non corrisponde comunque a una possibilità di vedere, sentire e saggiare nella sua crudezza la guerra. Assolutamente, lei mi faceva pensare anche alla prima guerra d'Iraq, dove abbiamo avuto comunque un'immagine ancora più opaca, ancora più organizzata attraverso pixel. Un finto cormorano affogato nel petrolio, preso da tutt'altro teatro per dimostrare l'aspetto dell'attacco all'ambiente, però non c'era niente di visibile. Sì. Buongiorno Luca. Nicoletto, buongiorno. Io volevo dire una cosa, io sono stato testimone nel mio anno di Naia di una morte accidentale di un compagno, quei classici orribili scherzi, un fucile carico, parte un colpo, sì. Dopo per qualche giorno ci hanno fatto montare di guardia. Cioè è successo che durante una guardia scherzando uno si è ammazzato? Sì, no, un ragazzo ha ucciso un altro, pensava che l'arma fosse scarica, sai, quelle possono cose orribili. Ai tempi in cui la Naia veniva fatta tanto per scherzo, ecco così. Sì, era l'85, se non sono anziano. Però mi ricordo che per 2 o 3 giorni dopo ci hanno fatto montare disarmati, insomma senza le munizioni. Poi dopo tutto è tornato normale, perché nella vita militare, i militari hanno tutta un'altra percezione della morte, per cui io posso solo immaginare che le foto, gli articoli che noi leggiamo qui fanno completamente tutta un'altra impressione a noi e a loro, perché sono proprio due mondi completamente differenti. Loro sono oddio, è abbastanza grottesco morire con la divisa addosso per uno scherzo cretino fatto da un compagno di guardia che ti spara addosso non sapendo che c'era il colpo in canna. Sì, però gli ufficiali, quella gente che di mestiere fa quel lavoro lì, hanno subito saputo reagire in una maniera che è assolutamente differente da quella di una morte che coglie una persona che sta facendo un qualsiasi lavoro, un qualsiasi ambiente di lavoro. Sì, perché nel grande meccanismo eufemistico ci si dimentica sempre che il militare è una persona che dalle origini della specie umana fino alle guerre moderne è addestrato per uccidere e per evitare di essere ucciso. Questo è il militare, non è che serve altre cose, a salvaguardare, a fare... Il militare è una macchina fatta per uccidere, tanto più è capace a uccidere in maniera efficiente, tanto più un bravo militare. Questo è il militare. Marco, sei d'accordo o esagero? No, non esagero, perché la funzione del militare è sempre stata quella di offesa e protezione. E i corpi addestrati, che sono sempre esistiti, ma sono famosi gli esempi, per esempio, dei mercenari nel Risorgimento, erano persone che addirittura avevano come loro obiettivo quello di morire o di uccidere, perché era la loro attività. È il fatto che la guerra si incentri sempre sul concetto di morte e di sopravvivenza. Il problema di questa guerra attuale è che non se ne ha la percezione, perché c'è un senso come di delocazione, non si sa dov'è, come succede. Anche gli scenari che vediamo non sono gli scenari consueti, e quindi dà un senso come di straniamento. Assistiamo a un film. E c'è altresì da dire che la rappresentazione in fiction dell'attività bellica ormai è talmente realistica, è talmente resa in maniera suggestiva, con gli effetti sonori, con la ripresa digitale, con la post-produzione stratosferica, che siamo convinti di essere abituati alla visione del grande videogame di ogni guerra possibile e immaginabile. Poi in realtà basta una foto totalmente incoerente, non si vede una goccia di sangue, si vede soltanto un soldato steso per terra di cui non si vede manco la faccia, ci fa veramente per la prima volta riflettere sul senso profondo di cosa sia una guerra, nel bene o nel male, al di là di ogni posizione ideologica, ogni punto di vista. Gianfranco, buongiorno. Dottor Nicoletti, buongiorno a lei. Mi sente bene? Sì, se chiude la radio è ancora meglio. Va bene, ok. Allora, dottor Nicoletti, io vorrei portare una testimonianza, ma più che mia, di una lettera è datata 23/4/1942. In pratica è un sergente maggiore che scrive la lettera alla mamma di un suo commilitone morto, del suo mitragliere. Dove l'ha trovata questa lettera? L'ho acquistata in un mercatino, mi ha colpito molto, l'ho acquistata e l'ho qui da una decina d'anni. Premetto che vorrei regalarla, poterla dare a quel signore che sta facendo il museo. Guarda, si sta già leccando i baffi, perché come ha sentito questa... Io tutte le volte che ho chiamato Marco Pizzo in trasmissione, ho parlato di queste cose, lui ha avuto un ricco bottino di ascoltatori che gli hanno fornito queste testimonianze concrete. Quindi la metterò in contatto con lui e quindi la sua lettera apparirà nella mostra di novembre che si farà qua a Roma. Io vorrei tanto, dottor Nicoletti, che fosse lei a leggere questa. Sì, ma se mi dà il tempo, perché lei legge molto meglio di me. L'accenni soltanto, che leggerla tutta è come l'altra sera Berlusconi vuole leggere la lettera del vescovo e Vespa non gliela far leggere, porta io via non, tempo. Non è... Niente, qui in pratica scrive la madre e dice: Edner per me era un fratello, era il fratello minore. Ugualmente grande è il mio dolore per la sua immatura perdita. È stato un ottimo soldato, un eroico combattente, era il mio mitragliere. E ho visto Ender morto vicino a me, di morte fulminea, eroica, con armi in pugno. Il vostro Ender è in cielo, perché lassù è il suo posto, tra gli eroi fini, più puri. Siate forte, signora, non disperate. Il Signore lo ha voluto con lui perché era tanto buono. Ecco, questa lettera, mi sembra, Marco Pizzo, fa parte del corredo, gli strumenti di elaborazione. È una lettera in cui vede il suo mitragliere morire e naturalmente già lo colloca in una sorta di empire degli eroi e consola la moglie, la madre, non ho capito bene, con questo tipo di scrittura. Sì, è una scrittura di guerra ben precisa. Classica. Classica, sono le lettere, tra virgolette, consolatorie. Quindi sono già, diciamo, è un modulo prescritto che si cambia solo il nome più o meno. Esatto, ben diverse sono invece le lettere che commilitoni mandano direttamente alle famiglie e non a caso queste erano censurate. E perché si racconta realmente, esattamente come ha fatto il giornale, quello che è la morte. Riprendo la linea con Giovanni Fiorentino che... è caduto, è perfetto, mi sembrava che fosse ancora in linea, invece non c'è più. Non ho scritto la persona, ecco. Giovanni Lombardi, buongiorno. Buongiorno. Chiedo scusa, ma che stamattina è un po' concitata la trasmissione, la stiamo facendo a tempo reale. Giovanni Lombardi è un'infermiera, ha lavorato per 6 mesi con Emergency a Kabul e quindi lei ha visto l'aspetto della guerra che molte volte non traspare dall'iconografia ufficiale. Come si vede la guerra guardandola appunto da dietro? Quando arrivano i morti, arriva la gente fatta a pezzi, arrivano i feriti. Beh, è un'esperienza che senz'altro segna perché non mi ha permesso di avere veli e barriere rispetto a quella che era un'esperienza che fino ad agosto scorso ho vissuto attraverso i media, attraverso dei racconti. E la differenza è incredibile, cioè non ci si può nascondere di fronte all'orrore che viene a bussare alle porte di un ospedale di guerra. Ecco, perché... l'episodio che noi abbiamo sentito raccontare, di cui abbiamo soltanto un pallido esempio da una foto di un soldato riverso col volto mascherato, in realtà è ben tutt'altra cosa vista dagli arrivi e le partenze, ahimè, dentro un sacco in un ospedale militare. Vivendola sì, perché innanzitutto è un'esperienza quotidiana che tocca non solo soldati, ma tocca chiunque viva in quel paese. E la guerra è una, per come io l'ho vissuta, è veramente una belva che si nutre di generazioni di uomini e donne che vivono in quella in un popolo, cioè vivono in una terra in guerra. E veramente la differenza che io vivo adesso in questi giorni, vedendo Kabul attraverso il filtro dei media, è proprio quella di avere una sorta di pudore, di censura buona, quasi protettiva nei confronti di quello che la guerra può comunicare veramente. Ecco, Marco Pizzo, quello che ci sta raccontando il nostro amico Giovanni Lombardi dimostra che il progredire delle tecniche di riproduzione della realtà, l'universo mediatico, il tanto conclamato strumento di condivisione dell'attualità, in realtà ha la stessa metodologia che avevano le foto fatte con il treppiede delle guerre di cui parlavi te. Proprio perché si crea una sorta di assuefazione e anche l'immagine bellica che noi vediamo attraverso i film è una visione comunque retorica. Tant'è che i film bellici che hanno fatto scandalo e sono stati censurati, tipo quelli di Kubrick o alcune sequenze di Coppola, erano tali proprio perché mostravano una visione straniante della guerra, la realtà. La fine di Apocalypse Now o di Orizzonti di Gloria sono stati oggetto di censura perché finalmente la guerra veniva rappresentata come se fosse cronaca diretta, mentre l'altra visione è sempre comunque una visione retorica, edulcorata ed è la stessa delle stampe risorgimentali dell'Ottocento. Giovanni Lombardi, se dovesse descrivere in termini di sensazioni tattili, olfattive, auditive, quello che si vede al di là dell'immagine ufficiale della guerra. Cos'è? Urla, sangue, pezzi di membra umane, questo che si vede? Una domanda. Effettivamente quello che si vede o quello che io ho provato è una grande disperazione. La disperazione innanzitutto di persone giovanissime, lei pensi che arrivano spesso in un ospedale bambini di 8 anni, 10 anni, combattenti di 20 anni, che percepiscono che la loro vita o è finita o da un momento all'altro non sarà più la stessa per le orribili mutilazioni, per il dolore, e dall'altra la disperazione dei familiari, delle persone che vivono quotidianamente nell'orrore, vivono nella paura che questo possa succedere continuamente. Io sono stato testimone di un grosso attentato quando ero giù. Il pensiero, quando sentimmo l'esplosione che fu poco lontano dall'ospedale, fu subito, immediatamente, quello di, percependo l'onda d'urto che aveva raggiunto l'ospedale, di come i nostri infermieri afghani potessero vivere in una terra così, uscendo ogni mattina e non sapendo se sarebbero tornati oppure se tornando a casa non potevano trovare più un familiare, un figlio. Questa cosa è secondo me l'essenza della guerra, quello che mi sono riportato dietro da questa esperienza, cioè la guerra è la negazione della vita, ma non inteso semplicemente il rapporto tra vita e morte, quanto proprio della possibilità di avere una vita normale, progettuale, vicino alla propria famiglia. Questo è secondo me quello che si ha veramente difficoltà a rappresentare della guerra. Ecco, noi ci fermiamo soltanto un istante per dare le informazioni del traffico, ma vedo che sto cogliendo quello che era il punto. Questa mattina la maggior parte degli organi di informazione in Italia è semplicemente una rottura della quotidiana liturgia del racconto della realtà fatta appunto attraverso la politica, attraverso la cronaca, attraverso le riflessioni, le opinioni, l'incrociarsi dei pareri nei giornali, che molte volte è un meccanismo molto chiuso, molto autoreferenziale, in cui i giornalisti parlano tra loro pensando che il mondo condivida il loro salotto di opinioni, che in realtà riproducono le loro cenette serali, le loro visite in terrazza, le loro frequentazioni sulle spiagge delle coste italiane. In realtà la guerra è questo, noi la conosciamo soltanto quando cadono dei soldati che fanno parte delle nostre missioni di pace e pensiamo che la guerra sia soltanto un grande funerale di Stato. Stiamo cercando di guardare con un'ottica un po' diversa del consueto quella che sia la percezione generale del senso della guerra, che è ben altra cosa rispetto a quella che si racconta, a quella che si vede nei film. E questo essere diverso fa parte di una storia abbastanza antica, una storia che possiamo datare con l'inizio della possibilità elettronica di riprodurre la realtà, un grande strumento di rivelazione di verità, ma anche un grande strumento di camuffamento emotivo di ciò che la guerra potrebbe produrre nelle popolazioni. Ho con me in studio Marco Pizzo, che è direttore del Museo Centrale del Risorgimento a Roma e sta proprio organizzando fatalmente una mostra sulle immagini della guerra. L'immagine ufficiale, le immagini delle parate, degli eroi, delle medaglie, e le immagini concrete, quelle che non si vedono mai, quelle dei morti, delle persone fatte a pezzi e delle vittime della guerra. E siamo partiti analizzando una singolarità nel racconto quotidiano che hanno fatto i giornali di questo episodio dei sei soldati italiani morti in un attentato a Kabul. Tutti i giornali hanno mostrato le immagini ufficiali, la morte non si vede, la morte che è coperta, e il luogo e il teatro di guerra martoriato negli oggetti insensibili, ma nessuno ha mostrato la morte. Un giornale, Il Giornale, ha mostrato un cadavere di un soldato italiano. Marco, ti potrei riflettere su due fondamentali operazioni sono state fatte questa mattina. Il volto di questo soldato è stato coperto pietosamente da un'operazione digitale, hanno pixellato la faccia, ingrandendo i pixel che compongono l'immagine, rendendola riconoscibile, perché come ci ha detto Alessandro Sallusti, condirettore del giornale, quella faccia non c'è più, è devastata, è distrutta. Pensa oggi quanta attenzione si fa anche invece alle devastazioni che in una percezione di modelli estetici correnti sono meravigliose operazioni per rendersi più belli, nei volti delle persone note. Immagina quante fotonotizie sono state fatte su quel politico che si è tirato la faccia, si è tinto i capelli, su quell'attrice che si è gonfiata le tette. Ecco, il corpo che viene idolatrato nella sua possibilità di essere conservato oltre il cammino inesorabile della natura, è il corpo che in guerra viene brutalmente depezzato, fatto a pezzi, reso mostruoso. Sono le due facce di una medaglia che non si vuole vedere. Cioè, da una parte c'è una sorta di estetica del corpo perfetto. Il corpo deve essere bello, rifatto, perfetto. Dall'altra, la guerra mostra invece la fragilità del corpo. E più che la morte, fa comunque, secondo me, più paura il senso della mutilazione, dello stato intermedio, di quella zona grigia. La testimonianza dell'infermiere, che secondo me è straordinariamente importante, perché ci dà conto della fragilità, della transitorietà. La descrizione delle sale operatorie, che vengono descritte da chi opera sul campo, ed era così nella Prima Guerra Mondiale, ma era addirittura così nella guerra di Solferino dell'Ottocento, avevano proprio questo senso del corpo fatto a pezzi. E non era possibile rimodellare questo corpo. Oggi è possibile rimodellare questo corpo, ma nel momento in cui c'è la mutilazione, il corpo viene deformato, è diverso. E non a caso gli orientamenti dell'arte contemporanea, cioè la cosiddetta body art, riguarda proprio questo, la deformità del corpo come immagine irrituale del reale. E questo è il nocciolo. E la importanza di questa foto è proprio questa, quello di mettere il dito sulla piaga. Giovanni, vediamo un po'. Ecco, Giovanni Lombardi, abbiamo nuovamente al telefono? Sì, sì. Ecco, ricordo che è infermiera, ha lavorato per 6 mesi a Kabul per immergersi. Rispetto a quello che diciamo, ci puoi dare l'esatta percezione del senso del dolore, della morte, della mutilazione nelle popolazioni locali? Non dimentichiamo, ci sono stati anche 15 civili morti in questo attentato. Noi vediamo la nostra porzione di vittime, ma non consideriamo che in realtà una guerra è senza discrimine quando colpisce. Abbiamo noi occidentali civilizzati ed edulcorati nella cura del nostro corpo una visione diversa di fronte a quell'orrore della guerra? Beh, quello che io almeno pensavo prima di partire, che era quello di trovarmi di fronte a dei popoli avvezzi alla sofferenza, quindi in qualche modo induriti. In realtà questa cosa io non l'ho trovata a Kabul. Cioè la carne soffre a qualunque latitudine, non c'è addestramento al dolore. Non c'è addestramento perché quella la vita delle popolazioni civili in guerra è una vita prostrata completamente, cioè è una vita comunque sempre in ostaggio della violenza e vissuta nel terrore quotidiano, se non per sé, per quelli della propria famiglia. Quindi questa sensazione io l'ho vissuta in prima persona, ma l'ho vissuta soprattutto attraverso i racconti del personale afghano, e li ho trovati molto molto simili a quelli che mi faceva mia nonna della Seconda Guerra Mondiale. Quindi esiste una costante, una costante nel percepire la guerra che sì, attraversa tutte le popolazioni. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io mi ricollegavo, è vero che non c'è, come diceva prima Lombardi, non c'è una sensibilità al sangue e alla morte, questo sicuramente. E vabbè, quello che diceva lei all'inizio della trasmissione, il fatto che noi non abbiamo, grazie al cielo per carità, ma non abbiamo incontrato la guerra durante la nostra vita. Ahimè, non è che non l'abbiamo incontrata solo noi come giovani, io vedo che ho 40 anni, ma comunque come giovani, ma purtroppo evidentemente anche le classi, diciamo, dirigenziali oggi non l'hanno mai incontrata, quindi non c'è la difficoltà evidentemente di... Io vedevo per esempio ieri un pezzettino di intervista che ha fatto il Ballarò, praticamente, il conduttore di Ballarò, Floris, che in effetti faceva difficoltà, sembrava che facesse difficoltà a entrare nella testa del militare sulla sedia a rotelle. Beh, Floris non credo che abbia manco fatto il militare, lo so perché siamo stati colleghi ai tempi del giornale radio, come la gran parte oggi della generazione quarantenni. Abbiamo fatto varie trasmissioni, il servizio militare era quasi considerata un'onta, non avere un parente così importante per poterlo evitare, e nella migliore delle ipotesi fa infureria. Chiudiamo con Daniela. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono un'insegnante e... Andiamo al punto, siamo in conclusione. Cos'è allora, che le ha dato fastidio? Diciamo, non mi è piaciuto che ieri sera Canale 5 abbia ritrasmesso la fiction Raffiria, proprio perché secondo me questa sovraesposizione, questa sovrabbondanza di morti vere e finte che si sovrappongono sono fortemente diseducative. Ecco, secondo me sono quelle scelte di palinsesto che fa sempre un funzionario. Cosa mettiamo, come cambiamo, come ci teniamo allineati a quello che deve essere un sentire comune. Ci sono stati morti italiani, quindi bisogna comunque modificare i palinsesti per rimanere nell'onda emotiva del cordoglio, del lutto. Cosa facciamo? Mettiamo la fiction su una Siria, così siamo tutti contenti. Marco Pizzo, una battuta su questo, poi chiudiamo. Questo fa parte proprio della retorica della guerra. L'aver messo in onda una Siria ieri sera significa praticamente dare e continuare a prediligere una visione edulcorata e retorica della guerra, come si faceva nell'Ottocento e nel Novecento. Non è cambiato nulla. Ringrazio Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni che in maniera immediata mi hanno aiutato a mettere su questa trasmissione. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.